Non stava ì, bambine. Non stava ì, bambine. Non stava ì, gno ben. Quel tic di lagrimute mi altegne lu tal sen. E il monno si sclontene, ma il sgurle il pirle intor. No passe un'ore sole, che un bot nol bat sul tor. Tegni tutto al sé.